È un incontro pubblico in cui i diretti protagonisti, provenienti da settori professionali più diversi che lavorarono quel giorno sul teatro dell'evento, si racconteranno, si rincontreranno fra di loro e quindi sarà veramente un'assemblea dal vivo in cui i protagonisti hanno appunto la possibilità di riflettere, di ricordare, di rivivere quel momento e nell'incontro però con i cittadini che vorranno parteciparvi e anche rispondere a eventuali domande, eventuali curiosità. Perché il soccorso è un momento molto particolare, per quanto appunto si strutturi la professionalità del soccorritore, ha sempre bisogno di una grande capacità improvvisativa nel momento in cui avviene, per cui capire anche come i professionisti del soccorso lavorano rispetto all'esperienza maturata, ma anche alla capacità di reagire nel momento presente in cui si richiede il loro intervento. E questo per chi non è abituato a rispondere in tempi così rapidi a un evento così forte, è molto interessante per insegnarci qualcosa sulla reattività, ed è una reattività corale, collettiva, orchestrale, compartecipata, che va anche strutturata, insomma, non soltanto richiede la presenza del singolo, ma anche di una concertazione.